Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Quando tutto ridivenne silenzioso, l'ospite tornò e comunicò che la camera numero 120 aveva un ospite. Avevano portato qualcuno che continuava a supplicare che gli rendessero la sua testa. I due interlocutori tacquero preoccupati, ma tranquillizzatisi, tornarono alla narrazione interrotta. L'ospite stava per aprire la bocca, ma la notte era davvero movimentata. Si sentirono ancora delle voci nel corridoio e il visitatore cominciò a parlare all'orecchio di Ivan, così piano che il suo racconto fu sentito soltanto dal poeta, ad eccezione della prima frase. Un quarto d'ora dopo che mi ebbe lasciato, bussarono alla mia finestra. Ciò che il malato sussurrava all'orecchio di Ivan gli causava evidentemente una profonda emozione. Delle contrazioni alteravano continuamente il suo viso, nei suoi occhi aleggiavano e si agitavano la paura e il furore. Il narratore puntava la mano in direzione della luna, che da tempo aveva abbandonato il balcone. Solo quando dall'esterno cessarono di arrivare i rumori, l'ospite si scostò da Ivan e parlò con voce più forte. «Sì, e allora a metà gennaio, di notte, con quello stesso soprabito che avevo ormai i bottoni strappati, mi rannicchiavo dal freddo nel mio cortile. E dietro di me mucchi di neve avevano coperto i lilla. Davanti a me e sotto c'erano le mie finestre coperte dalle tende e debolmente illuminate. Mi appoggiai alla prima e stetti in ascolto. Nelle mie stanze suonava un grammofono. Fu la sola cosa che udii, ma non riuscii a vedere nulla. Rimasi lì un po', quindi uscii dal cancello nel vicolo. Mi soffiava la tormenta. Mi spaventò un cane che mi si buttò sotto i piedi e per sfuggirlo attraversai di corsa la strada. Il freddo e la paura, che era diventata la mia compagna inseparabile, mi portavano all'esasperazione. Non avevo dove andare. La cosa più semplice, naturalmente, sarebbe stata buttarmi sotto uno dei tram che transitavano nella via in cui sboccava il mio vicolo. Da lontano vedevo quei cassoni ricoperti di ghiaccio e pieni di luce e udivo il loro ripugnante stridore nel cielo. Ma, caro mio vicino, il fatto era che la paura dominava ogni cellula del mio corpo. E come temevo il cane, temevo anche il tram. Sì, in questo edificio non c'è malattia peggiore della mia. Glielo assicuro. Poteva ben farglielo sapere, disse Ivan, pieno di compassione per il povero ammalato. Inoltre, il suo denaro non ce l'ha lei. Glielo avrà conservato, no? Non dubiti. Certo che l'ha conservato. Ma si vede che lei non mi capisce, o meglio, io ho perso la capacità che possedevo un tempo di descrivere le cose. Del resto, non mi dispiace molto, perché non ne avrò più bisogno. Si troverebbe davanti, e l'ospite guardò con venerazione il buio della notte, una lettera dal manicomio. Mi dica lei se si può mandare una lettera quando si ha un indirizzo del genere. Un malato di mente? Lei scherza, amico mio. Renderla infelice? No, non ne sono capace. Ivan non seppe replicare, ma muto compativa l'ospite, ne sentiva pietà. E quegli, tormentato dai ricordi, scuoteva la testa coperta dal berretto nero e diceva: «Povera donna, del resto spero che mi abbia dimenticato». «Ma lei può guarire», disse con timidezza Ivan. «Sono inguaribile», rispose calmo l'ospite. «Quando Stravinsky dice che mi restituirà alla vita, io non gli credo. È pieno d'umanità e vuole semplicemente consolarmi. Non voglio negare, peraltro, di stare meglio adesso. Ah, sì. E dove ero rimasto? Ah, il gelo. Quei tram che filavano. Sapevo che avevano già aperto questa clinica e attraversai la città a piedi per venirci. Follia. Sarei certamente morto congelato nella campagna, ma un caso mi salvò. Un camion aveva avuto un guasto. Io mi avvicinai all'autista, era circa 4 chilometri oltre la cinta d'aziaria, e con mia grande sorpresa egli ebbe pietà di me. La macchina era diretta alla clinica e mi diede un passaggio. Me la cavai con un congelamento delle dita del piede sinistro. ma me lo guarirono. E adesso sono qui da oltre 3 mesi. Sa, trovo che qui non ci si sta poi tanto male. Non bisogna proporsi piani grandiosi. Oh, caro vicino, io ad esempio volevo fare il giro del mondo. Si vede che non è il mio destino. Conosco solo un piccolissimo pezzetto di mondo. Penso che non sia il migliore, ma ripeto, non è poi male. Adesso arriva l'estate e sul balcone ci sarà l'edera. Le chiavi hanno allargato le mie possibilità. Di notte ci sarà la luna. Oh, oh, se n'è andata. Fa fresco, eh? È ormai mezzanotte passata. È ora che io vada. Mi dica, cos'è successo poi a Yeshua e a Pilato? Chiese Ivan. La supplico, lo voglio sapere. Oh, no, no, no, no, no, rispose l'ospite con una smorfia di dolore. Non posso ricordare il mio romanzo senza rabbrividire. Il suo conoscente dei patriarci lo farebbe meglio di me. Grazie della conversazione e arrivederci. E prima che Ivan reagisse, l'inferriata si rinchiuse con un lieve tintinnio e l'ospite sparì. Seguimi, lettore. Chi ti ha detto che non c'è al mondo un amore vero, fedele e eterno? Gli taglino la lingua malefica a quel bugiardo. Seguimi, lettor mio, seguimi solo e io ti mostrerò un simile amore. No, si ingannava il maestro quando all'ospedale verso mezzanotte diceva con amarezza a Ivanyushka che essa l'aveva dimenticato. Questo non poteva accadere. Lei, naturalmente, non l'aveva dimenticato. Sveleremo prima di tutto un segreto che il maestro non aveva voluto svelare a Ivanyushka. La sua amante si chiamava Margherita Nikolaevna. Oh, tutto quello che egli aveva detto di lei al povero poeta era la pura verità. Aveva descritto fedelmente la sua diletta. Essa era bella e intelligente. A questo va aggiunto qualcos'altro. Si può dire con sicurezza che molte donne avrebbero dato qualunque cosa per scambiare la loro sorte con quella di Margherita Nikolaevna. Trentenne, senza figli, era la moglie di un insigne specialista, il quale, inoltre, aveva fatto una grandissima scoperta di importanza nazionale. Era un uomo giovane, bello, onesto, e adorava sua moglie. E Margarita Nikolaevna e il marito occupavano da soli tutto il piano superiore di una bellissima palazzina con giardino in uno dei vicoli vicino all'Arbat. Oh, un sito incantevole. Chiunque potrà convincersene se vorrà recarsi in quel giardino. Basterà rivolgersi a me, gli darò l'indirizzo, gli segnerò la strada. La palazzina è tuttora intatta. Margarita Nikolaevna non era a corto di quattrini e poteva comprarsi tutto quello che voleva. Fra i conoscenti di suo marito c'erano anche degli uomini interessanti. Margarita Nikolaevna non toccava mai il fornello a petrolio, non sapeva quanto fosse orribile la vita in un appartamento in comune. Insomma, era una donna felice? No, nemmeno per un minuto. Da quando a 19 anni si era sposata ed era andata a vivere nella palazzina, non aveva conosciuto la felicità. Oh, numi! Di che cosa dunque aveva bisogno quella donna? Di che cosa aveva bisogno quella donna nei cui occhi ardeva sempre un incomprensibile focherello? Di che cosa aveva bisogno quella strega, lievemente strabica da un occhio, che in quella primavera si era adornata di mimose? Non lo so, lo ignoro. Evidentemente essa diceva la verità. Aveva bisogno di lui, del maestro, e non di una palazzina gotica, né di un giardino particolare, né di quattrini. Essa lo amava e diceva la verità. Anche a me, narratore veritico, ma persona estranea, si stringe il cuore pensando a quel che provò Margherita quando arrivò il giorno dopo nella casetta del maestro, senza aver potuto per fortuna parlare col marito che non era tornato all'ora stabilita, e apprese che il maestro non c'era più. Essa fece di tutto per sapere qualcosa di lui e, naturalmente, non riuscì a scoprir nulla. Allora ritornò alla palazzina e qui riprese a vivere. Ma non appena scomparve la neve sudicia dai marciapiedi e dai selciati, non appena dallo sportellino della finestra entrò il primo soffio di vento primaverile, umidiccio e inquieto, Margarita Nikolaevna si sentì più depressa che durante l'inverno. Spesso piangeva di nascosto un lungo amaro pianto. Non sapeva se amava un vivo o un morto. E più passavano i giorni desolati, tanto più spesso e soprattutto al crepuscolo le veniva da pensare che era legata a un morto. Bisognava che lo dimenticasse o morisse a sua volta. Non poteva infatti continuare a far quella vita. Non poteva dimenticarlo a ogni costo. Dimenticarlo. Ma lui non si lasciava dimenticare. Questo era il guaio. «Sì, sì, sì, questo fu lo sbaglio», diceva Margherita, seduta davanti alla stufa e guardando il fuoco acceso in memoria di quello che ardeva ai tempi in cui egli scriveva a Ponzio Pilato. «Perché andai via da lui quella notte? Perché?» «Fu una vera pazzia. Io tornai il giorno dopo, lealmente, come avevo promesso, ma era tardi ormai. Sì, tornai come l'infelice Levi Matteo, troppo tardi». Beh, tutti questi discorsi erano naturalmente assurdi, perché, e diciamo la verità, che cosa sarebbe cambiato se quella notte essa fosse rimasta dal maestro? L'avrebbe forse salvato? Che idea ridicola, esclameremmo noi. Ma non lo faremo di fronte a una donna ridotta alla disperazione. Thank you. Il giorno stesso in cui successe tutto l'assurdo scompiglio provocato dall'arrivo del mago nero a Mosca, il venerdì in cui lo zio di Berlioz fu spedito indietro a Kiev, in cui fu arrestato il ragioniere e accaddero tante altre cose stupide e incomprensibili, Margherita si destò verso mezzogiorno nella sua camera da letto, in cui c'era un bovindo che terminava con la torre della palazzina. Al suo risveglio Margherita non scoppiò a piangere come le succedeva spesso, giacché si era svegliata col presentimento che quel giorno, finalmente, qualcosa sarebbe avvenuto. Appena fu conscia di questo presentimento, si diede a scaldarlo e a alimentarlo nella sua anima, per timore che esso lo abbandonasse. «Ci credo», sussurrava solennemente Margherita, «ci credo, qualcosa accadrà». Non può non accadere, poiché, infatti, per qual motivo dovrei essere condannata a un tormento che dura tutta la vita? Riconosco d'aver mentito e ingannato, d'aver vissuto una vita segreta, celata alla gente, ma non si può punirmi per questo così crudelmente. Qualcosa accadrà di sicuro, giacché è impossibile che qualcosa duri in eterno. E inoltre il mio era un sogno profetico, questo lo garantisco. Così sussurrava Margherita Nikolaevna, mentre guardava le tende color rosso acceso, inondate dal sole. Si vestiva febbrilmente, si pettinava davanti allo specchio a tre luci, i corti capelli arricciati. Il sogno che Margherita aveva fatto quella notte era veramente insolito. È un fatto che durante il suo martirio invernale essa non aveva mai sognato il maestro. Di notte la lasciava, ed essa si tormentava soltanto durante le ore diurne, ma quella volta l'aveva sognato. Margherita aveva sognato un sito sconosciuto, desolato, triste, sotto il cielo fosco della primavera precoce. Aveva sognato quel cielo grigiognolo, pezzato di nuvole trascorrenti e sotto uno stormo silenzioso di cornacchie. Un piccolo ponte rozzo, sotto di esso un torbido fiumicello primaverile, alberi malinconici, stenti, semispogli, una tremula solitaria e più lontano, fra gli alberi, al di là di un orto, una casupola di tronchi, o forse una cucina isolata, oppure un capanno da bagno, o sa il diavolo che cosa. Tutto intorno un non so che di morto e di così triste, che veniva voglia di impiccarsi a quella tremula vicino al ponticello. Che sito infernale per una persona viva. Ed ecco, figuratevi, si spalanca la porta di questo edificio di tronchi e appare lui. È piuttosto lontano, ma chiaramente visibile. È lacero, non si riesce a capire che cosa indossi, ha i capelli arruffati, la barba lunga, occhi da ammalato, pieni d'apprensione, le fa un cenno con la mano, la chiama. Soffocando nell'aria morta, Margherita corse sulle zolle verso di lui e in quel momento si destò. Questo sogno significa soltanto due cose, ragionava fra sé Margherita Nikolaevna. Se è morto e mi faceva cenno, significa che è venuto a prendermi e che presto morrò. Sarebbe una bella cosa, perché così avrei finito di soffrire. Oppure è vivo. E allora il sogno può significare una cosa sola, che egli si ricorda di me. Vuol dire che ci rivedremo ancora. Sì, ci rivedremo molto presto. In quello stesso stato di eccitazione, Margherita si vestì e cominciò a persuadersi che, in fondo, tutto prendeva una piega molto favorevole, e questi momenti favorevoli bisogna saperli cogliere e approfittarne. Suo marito era partito in missione per 3 giorni interi, e per questi 3 giorni essa era lasciata a se stessa. Nessuno le avrebbe impedito di pensare a quello che voleva, di sognare quello che le piaceva. Tutte le 5 stanze dell'ultimo piano della palazzina, tutto questo appartamento che a Mosca le avrebbero invidiato decine di migliaia di persone, era a sua completa disposizione. Eppure, rimasta libera per 3 giorni interi, di tutto questo lussuoso appartamento Margherita scelse il posto di gran lunga peggiore. Dopo aver preso il tè, andò nella stanza buia, senza finestre, dove si custodivano le valigie e ciarpame d'ogni genere in 2 grandi armadi. Si accoccolò davanti al primo di essi, aprì il cassetto inferiore e di sotto a un mucchio di ritagli di seta trasse l'unica cosa preziosa che possedesse nella vita. Fra le mani di Margherita comparve così un vecchio album di pelle bruna in cui c'era una fotografia del maestro, un libretto di risparmio con deposito di 10.000 rubli intestato a lui, i petali di una rosa secca appiattiti in mezzo a fogliette di carta velina e un pezzo di quaderno, tutto un quinterno, scritto a macchina e col margine inferiore bruciacchiato. Tornata con queste ricchezze nella sua camera da letto, Margherita Nikolaevna collocò le foto sullo specchio a tre luci e rimase seduta circa un'ora, tenendo sulle ginocchia il quaderno rovinato dal fuoco, sfogliandolo e rileggendo quello che, dopo la bruciatura, non aveva né capo né coda. Le tenebre venute dal Mediterraneo coprirono la città odiata dal procuratore. Scomparvero i ponti sospesi che univano il tempio alla terribile torre Antonia. Calò dal cielo un gorgo che sommerse gli dei alati sopra l'ippodromo. Il palazzo degli Asmonei con le sue feritoie, i mercati, i caravanserragli, i vicoli, gli stagni. Sparì Gerusalemme, la grande città, come se non fosse mai esistita. Oh, Margherita avrebbe voluto leggere più avanti, ma più avanti non c'era nulla, all'infuori di una frangia disuguale, carbonizzata. Asciugandosi gli occhi, Margherita Nikolaevna depose il quaderno, appoggiò i gomiti sul tavolinetto che reggeva la specchiera e, riflessa nello specchio, rimase a lungo seduta senza staccare gli occhi dalla fotografia. Poi le lacrime si esaurirono. Margherita rimise insieme accuratamente i suoi averi e pochi minuti dopo erano di nuovo sepolti sotto gli straccetti di seta e la serratura si chiuse, risonando nella stanza buia. Margherita Nikolaevna indossò il mantello nell'ingresso per andare a passeggio. La bella Natasha, la sua cameriera, chiese che cosa doveva preparare come secondo piatto e, ricevuta la risposta che ciò era indifferente, tanto per divertirsi, avviò un discorso con la sua padrona e si mise a raccontare cose inaudite, per esempio che la sera prima, al teatro, un prestigiatore aveva eseguito certi giochi per cui tutti erano rimasti di stucco. Aveva distribuito gratis a ognuno due boccette di profumo importato dall'estero e calze. Ma poi, finito lo spettacolo, il pubblico era uscito nella via e tacchete, tutti erano apparsi nudi. Margherita Nikolaevna si lasciò cadere sulla sedia sotto lo specchio dell'anticamera e scoppiò a ridere di gusto. Natasha, via, ma come non... non si vergogna, diceva Margherita Nikolaevna, una ragazza istruita e intelligente come lei, mentre fanno la coda raccontano tante di quelle frottole, e lei le ripete. Natascia arrossia e replicò, tutta infervorata, che nessuno aveva raccontato frottole e che lei stessa quel giorno aveva visto con i suoi occhi nella drogheria sull'Arbat una signora che era entrata nel negozio con le scarpe e mentre pagava la cassa le scarpe le erano scomparse dai piedi ed era rimasta con le sole calze. Aveva sgranato gli occhi e nel calcagno c'era un buco ed erano scarpe fatate provenienti da quello stesso spettacolo. E se n'è andata via così? Sì! «Se n'è andata via così!» gridò Natascia, arrossendo sempre di più, perché non le credevano. E ieri notte, Margherita Nikolaevna, la polizia ha messo dentro un centinaio di persone. Dopo quello spettacolo c'erano delle signore che correvano per la via Tverskaya con le sole mutandine addosso. «Questo naturalmente l'avrà raccontato Daria», disse Margherita Nikolaevna. «O da un pezzo mi sono accorta che è una gran bugiarda». Il comico discorso terminò con una sorpresa piacevole per Natascia. Margherita Nikolaevna andò in camera da letto e ne uscì tenendo in mano un paio di calze e un flaccone d'acqua di colonia, dicendo a Natascia che anche lei voleva fare un gioco di prestigio. Margherita Nikolaevna le regalò sia le calze che la boccetta e disse che la pregava di una cosa sola, di non correre in calze per la Tverskaya e di non dar retta a Daria. E dopo essersi abbracciate e baciate, padrona e cameriera si separarono. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.